lavando in terra ancora. Vuole pulito bene qua perché c'è piena di pingo, un bel. Non potevi portarti una brasiliana a pulire in terra, cazzo, gli avevo una spinta da dietro e puliva a destra, a sinistra, a sinistra, a destra. Dov'è questa strada la brasiliana? Stavo dicendo che è meglio che Antonio si porta lì a pulire una brasiliana, hai capito? Almeno gli ha un scopolo in mano e da dietro fa pulisce a destra, pulisce a sinistra, mi insegna a pulire. Ah, così è, così è, no. Così bisogna fare, bisogna fargli insegnare alle ragazze nuove per lavorare. E catta. A me lo puliscono bene. Adesso lo smetto, ma mi ammazza tua moglie. No, già non ti ammazza, no. E cos'è, più forte di casa arrivo, no? Sì, adesso. E beh, certo che devi più forte di casa, sei vicino a casa in aria, non ho capito. Ma è forza che ti inabiti? E già non credo. Ui, ui, ah. Carità perca. Ehi, che cazzo? Cazzo è quanto sta pompando, cazzo. Ui, ah. Pompa, bomba. Che me ne appunti, mica la paghi la corrente. Appunto per quello, mica la paghi tu, la paga la principale tu. Devi vedere quanto ho fatto bravo. Scusa, lascia intendere un canavazzo. Piano piano. Ma questo me lo porto a casa però. Non lo lascio qua. Se lo lasci lì ti pari subito, la sabbia lì. Adesso hai visto che c'è la guerra a casa dei supermercati, cazzo, ci sono gli scemi che vanno a caricarsi di olio, di acqua, cazzo, ma come fu, manco ci fossero bombardando questi giorni, cazzo, niente in macca. Già lo so, Antonemmi, io mi sto finendo di pulire, sto facendo l'ultima cosa a me, e poi impigli giù i piedi e mi innando, carica giù tutto. E fai bene, fai bene. Io stamattina mi sono andato a spendermi, cazzo, gli ultimi di arrivare, sono entrato nello spin, sembrava che ci fosse passato il coso, cazzo. Due pezzi per volta, cazzo. Ma con lockdown era così, non aiuto niente, gente sta uscendo fuori di testa qua, sassa, basta che uno scriva la cosa con coglionate. Quando poi adesso hanno scritto in pratica che la benzina forse hanno tolto le accise e quindi costa la metà, quindi lo sciopero non lo faranno più, capito? Basta che lo dica così, immediatamente vanno al supermercato a fare la scorta. Meno male a quello scemo gli è scesa tutta l'acqua in terra per la niente. Cappa, ma la gente è tutta fuori di testa, Antone. La gente è tutta fuori di testa, sana di capo. Immaginati una persona che abita, cosa ti posso dire, al centro storico, al quinto piano e si prende 15-20 cartoni di acqua. Io sono sicuro che quando ho finito di portare i cartoni mi scende un infarto. Ehi Antone, così è. Ehi, guarda. È stato meglio se avrebbero tolto questa coglionata di internet, tutto quello che leggono la gente ci crede, non credono che i giornali credono solamente a quello che scrivono su internet e basta, capito? E come per dire, uno scrive domani mattina per dire, no? Martedì mattina il pesce tutto a un euro, tu vedrai che tutti vanno lì a Mercato Civico a comprare. Già lo so, Giantone, già lo so come funziona. Oiuia, per carità. No, io ho comprato solo quello che mi serviva a me, due pacchi di pasta, di tagliatelle, due pacchi di pennette e due pacchi di gnocchetti. E adesso non mi frega niente. Poi la carne ce l'ho, nel frigo ci sta poca roba perché è piccolo, ce la faccio a buttarci la roba da mondesse. garage non ne ho, frigorifero grande di quelli che avevo regalato, di quelli da, che si usavano una volta nel, cioè si usavano nel mare, quello l'avevo regalato tanto tempo fa, tanto per farlo fuori. Ma guarda, tu se no 6 mesi non di più. Cosa me ne vota? Una volta si usava per comprare agnelli interi, maglianetti interi, li facevi a pezzi, ce li mettevi lì e potevi andare a comprare, per dire, a Pasqua Capodanno la camera e ce l'avevi già nel frigo, tu devi fuori e a posto. Oppure il pane, non lo so, ma quella devi vai là. Mica mi devo riempire il frigorifero e il frigo del cazzo di carne, no, perché non lo so, la gente sta diventando matta, sta diventando. Ma chi sono, so? Uiami, Antonio, avanti 10 minuti e poi che asciuga tutto e poi via. Ah, e poi mettere con la cadrea ai nonchi. E poi più in vede minnato. Anche mi sono cuciato troppo i nonchi. E fai bene. Io dopo mi prendo il tram. Poi scendo verso le 6:30 da Nicco, mi bevo 2 birre e poi me la salgo a casa, perché stamattina ho consumato più di 30 euro, ho fatto 30 euro di spesa da una cosa all'altra e quindi sono rimasti solo qui. Un mattino alla fine avevo un transistor, c'era un condensatore a questo barattino a Santo Bianco e una resistenza. Il clima gli ho già cambiato, è a posto, così con normale, come una volta. Perché a volte il clima, a seconda di come UV, funzionava, saliva, scendeva il segnale. La trasmissione esce benissimo, è perfetto. Ecco, funziona adesso, è a posto, non c'è niente. Quindi l'unica cosa è se sono questa cazzata qua, dopodiché... Il Saturneco è bello, tranquillo, diventa un nuovo revisionato, vabbè, come l'altro, come quello che mi hai dato tu. Cosa, Antonio, che non ho capito, cos'è il revisionato? Il Saturneco, 2 pezzi mi mancano solo, un coso, un condensatore e una resistenza ne manca. Sono in pratica condensatore dell'audio e condensatore, cioè la resistenza per le cuffie, basta. Per cambiare il trimmer dello Smith gliel'ho messo nuovo, ce l'avevo già, almeno l'apparecchio revisionato e era a posto, come quello che mi aveva tutto in pratica, avevo tutti cambiati tutti i trimmer, tanto costava una cazzata la fesseria, però l'apparecchio era un treno, anche questo, sono stato fortunato, sono tutti e due, sembrano uguali, sembrano addirittura, capito? Escono bene, sono dei limoni, so. Già fa bene, Antone. Già fa. Quello che ho fatto ieri era buono, mi. Ho capito, quello che ho fatto ieri? Quel Saturneco che ho fatto io era buono. Sì, era buono. L'unica cosa è da cambiare, quei trim li ho cambiati, ho speso neanche 50 centesimi, mi. Quando mi sentivo mi pigliavo per il culo, ti hanno dato una bustitura, cazzo, mica di Romeo, 200 euro, Romeo a posto, va problemi, allora come è nuovo, e gli ho detto, e canta, canta, gli ho detto, e tu hai pagato il prossimo 50, gli ho detto, e vedrai come lo faccio diventare, gli ho detto, poi ne parleremo. Quando l'avevo sistemato, l'avevo sentito, cazzo, mi sono messo le mani nei capelli, mi sono messi. Dice, ma il mio non esce così forte. Mio invece sì, ho detto. Non ti ho pigliato lo Saturneco, arrangiati, gli ho detto. Io quello non lo voglio. Io non le spendo soldi. 200, 300 euro di Saturneco, non sarei matto. 150, va bene, è un prezzo giusto e ottimo. Come comprare, per adesso c'è un 680 a 320 euro su eBay, quello da prendere a voi, vabbè, 320, vabbè, è un ottimo prezzo, un microfono sul normale. Adesso 10 minuti, mi siedo e poi comincio a partire a casa. Uia, da cazzo l'ha sceso, non lo so. Poi ti prendi il tramvai, ti prendi la 4. dopo la vedi, me la facciai. Mica non è lontano, mi dici. Partendo da dove sei tu, fai quel pezzo di avviamento, arrivi alla, alle conce, sei arrivato. Se non è lontano, no. Adesso 5 minuti, siccome ti faccio la china, mi fate pure un mare. 5 minuti, mi relax. Poi pigio di me, ti carica giù che c'ha a fare, minnando. Vedi come ne fare così. Io, tanti anni fa, quando papà faceva la campagna, c'era tutta la campagna, facevo la via di zitto per avere produttore, se avere produttore se via di zitto. Ci impiegavo tre quarti d'ora a arrivare. Facevo via Mendo, dalle conce via San Paolo, e ero già arrivato in campagna, si può dire. Da qui per dire a Centro Studi che era più o meno la stessa distanza. Partendo da qui, tutto in discesa, via Roma, fino alla Piazza Castello, la Piazza Castello direttamente, così mi teniamo a dove, boh, arrivi due. No? E è salita lo stesso, 3-4 d'ora. E salivo tranquillo a piedi, da poter usare il tram, fai un tubo ad aspettare il tram. KK. Non essere lontano, anche lo dracco sta pure un bel cosa. Vabbè, se l'ho lamentato penso che il biglietto, io ho pagato l'altro giorno 1,30 ancora. Ehi, un bel mio, andata a parata, hai parato, un bel di rame, va a pesare a piglia in culo. Oh, io, che ho la schiena a pezzi, vado. Io so che c'è la schiena a pezzi, è come pulire casa tua. Lavare tutto in terra, passare l'aspirapolvere, prima si prima passare l'aspirapolvere, poi lavare in terra. Tutti, a un certo punto c'è la schiena a pezzi, cioè. Capito? Però bisogna sempre farlo, almeno ogni pochi giorni purtroppo bisogna farlo. Anche perché quando apri le finestre, se stanno facendo lavori come facevano qui, che si mettono a tagliare erba e roba del genere, poi la questione delle, quando stavano costruendo questi palazzi qui, o gli arrivi era di polvere nel nastro, facevano tutta la casa piena di polvere, cazzo. KK, almeno so che hai 10 minuti a asciutta appena poi, con questa roba in chimica. E via, dove? No. Ce la fai subito, già basta aprire tutte le finestre e le porte, vedrai come asciuga immediatamente. Tanto sta piovendo coso, cioè adesso non sta piovendo per niente. Stavo facendo sabbia fino a poco, un'oretta fa. Lo so già. Cazzo, comunque qua lo sai che sono zero di stazionari qua in deposito. È di un buon punto, ricordate qui sei in un vallone. E lì vicino a te c'è anche il posto dell'acqua, cioè, quindi c'è anche l'acqua lì di che passa. C'è la dragonaglia, lo sapevi lì? Scende proprio in Venezia, è piena d'acqua lì sotto. E arriva fino a via Matteotti, quando arrivi di via Matteotti senti del tombino come Corso Vico, mi sembra, la parola di Corso Vico, che senti l'acqua scendere, fai intendi. La stessa cosa è lì, tutto pieno d'acqua quella zona lì. Infatti noi abbiamo il posto, abbiamo. Lo so, hanno fatto che posto lì al coso, all'ipodromo addirittura, non l'hai visto nell'angolo. Proprio quel punto lì, dove c'è, prima avevano fatto la pappa e non c'era nulla. L'hanno fatto all'angolo, a ver se l'hanno trovata immediatamente l'acqua. Già lo so, già. Detto tutto ciò, ma cominciamo a andarmene, Gesù Cristo mio, Antone. Siamo al massimo adesso, E io sei contento. C'è qualcuno di basso sotto. Chi è che vuole entrare avanti? Senti, Antone. Segnale 2, lo sento. E gare chisto? L'appagazione. Appagata. E adesso siamo al massimo, è bollente. Gesù. ti fa un giro di canale, vediamo se come senti la tua operazione. Dai. Perché siamo su 10. Ma di solito ha voglia di preparazione, il chimico. Se già se sente basso basso. Ok Antone, dai, io ti ringrazio, la chiacchierata e tutte cose. Antonio chiude le trasmissioni, se ne torna a casa. Ciao ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Anto, ci sentiamo da casa tua, là, non c'è problema. Io adesso mi preparo e poi vado, fanno in giro da Ricco. Alle 8:30 già sono a casa. Fino al tram alle 8 e poi alle 8:30 sono a casa, almeno sventi un pochettino, ma stato una stasera a casa rinchiuso, è bello. Vabbè, a stasera, ciao. Ciao ciao ciao ciao ciao. Quando arrivano tutti i direttini, è tutto così forte, indelente, quindi anche riguardo quei grandi fratelli. CQ canale 10. Non abbiamo possibilità di innamorarsi di... CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? tutta la alle 10, c'è cosa no? E cos'è sul casino? Ciao qua! Vuoi già? Stazione 1 adesso. Andiamo, ho notato che compa parecchio con quell'affare. Eia, ma di tu cazzo che la rimendo un bel forte a Platamona, mi ha detto. Sì, Giovanni. Sì, mi dice che sta arrivando a bomba, ma adesso. Oggi non avevo neanche qua REM, sentivo a tutti bene, sentivo. Non nessun tipo di problema. Anche quelli che qualcuno non lo sentiva, io lo sentivo. No, ieri l'ho sentito Giovanni, ma dalla macchina non riuscivo a sentirlo bene, solitamente lo sento bene, ma io ce l'ho un po' di QRM. Ci sono giorni che è un casino, c'è un po' di QRM, non si comprende nulla. Chiappa. Oh, ma lì comunque sono un po' più tranquillo, qua non mi sento molto tranquillo. Là mi sento più tranquillo, anche se porto l'ambaravan, però non disturba nessuno, che non venisce uno in chiave. Ma tutto là lasci pure, io te la porto lì. No, ho portato qua. Sì, che senti tu ce ne usi. No, vabbè, ma la chia sì, lo compro e lo lascio stare. La cosa me lo riporta a casa, però. Comunque va bene, perché quando l'hai provato stamattina andava benissimo. Aumentava un bel po' di 2-3 segnali, Era un grido via che aumentavo i 2-3 segnali. Veragoso compagno dice che li stavo toccando il DB, è già un grido. Sì, ma poco di più vicino, da. Qua risultava bene. Risultava bene, da 7 arrivava a 9-5 in maglia. Voglia. Oh, il poveraccio, non lo so pensare tutti i vicini. Mi ha segnati. Ma quanto è quello? Da 6? No. 200 qualcosa, allora. È da tutti quei segnali che ce l'hanno. In che senso? Già, un po' voce su coso. Quello c'è oggi. Ehi, con la valvola modificata. Ah, qui 130. Cappa. Che c'è una valvola americana c'ha dentro, ma spinge come una bestia. Non so. Però devi stare semplice a vedere il barbo. È meglio. È meglio con il transistor, secondo me. Che del valvolare. A parte che consuma un bel. Vabbè, dio. Non ti lascio più da che arrivi a entra, vuole. Ora se l'arrivi 2000 euro, 3000 euro, si lamenta. No, non consuma così. È limitato, anche se spinge il pompa forte, ma no. Non ha quei livelli già. Sì, a male fa con la sorbono un po' di corrente. Specialmente all'inizio, quando stanno scaldando. Ti assorbono un po' di corrente. E quello, fatto valvolare, per quello io sempre che l'ho odiato, perché ti mando un po' di invece trasettorizzato, fa lo stesso lavoro e praticamente non funziona quasi più. Lo so. Infatti là mi porterò il 747, che oggi sempre ben minoghi, me lo porto di là e via, metto uno di quelli alimentatori, anche da 20 ampere basta tanto. E quelli cinesi? E allora, piccolo ma sincero, che alimenti baracchino a coso, già va bene, già basta, li metto codice 5 e il lineare funziona bene. Praticamente ti toglie, non va più a 12 watt, vanno a 5 watt, e lui lo fa funzionare bene, capito? Anche un compito, e beh, tu vedi com'è andata la campagna? Bene. Andava bene. A posto le righe? Un po' gareddo già, un pochettino frizzantino, ma non è nulla. Intanto che basta fresciare lì, guida. Cappa, ma io mi diverto, quando vado nei pozzi non mi affarro, no. Non mi pongo a girare le balle, capito? Come è successo ieri, che mi hanno detto che è successa a Rissa, ma da un'altra parte però. Ma magari capita che tu cadi, mi dai in giro e cose, tu non ti cadi, capito? Non succede. sono quelli che ti provocano. Io lo so, non vogliono. Ho detto tu non ammanevi già in giro. Perché grazie a Dio ti ha già imparato bene. Lui no, non è baghissimo, no. Sono fatti così quando si affarrano. Si cose, la loro compagnia. E allora, di cazzo, non è uno che passa e dai. Lui già, si chiama Salvatore Beccaccino, lo chiamano. Ogni campana. Ma canta? Sì. Oh, io già. Canta, mamma mia. Non è per tutti la casa. La passione ci vuole. La passione deve essere anche portata. Solo la passione non c'è la voce, la buco di fare. Ma noi già lo so, già. Hai ragione. Ciappa. E ma chi c'è quello peggio di tutti già? Mamma mia. Ma tu quando vai con Sara vai da solo? Sempre con Sara, non porto sempre Sara, perché devo andarci da solo? Ah, perché questi fusti già lo sai com'è, se si dirà per davvero, ma del genere, andarci con l'allora devi essere sicuro che siamo per l'ambiente, dai. No, è tranquillo. E ce n'è altri che vanno con la ragazza? Molti. Allora già va bene, dai. E Sara canta? Sì. Che genere fa? Un po' di tutto. Già va bene. Già da me. Ma me lo divertite, mi sfogate. Che roba. Pure io già. Allora, se Dio vuole, mi sistemo un po' e mi metto a fare il karaoke, pure io. E vai a fare il karaoke, vai. Ebbè, Natali, ti faccio uscire l'occinfora a me. Luci devora, vi faccio uscire. Stamattina sono uscito in macchina, non vedo un'anima. Dopo, alla fine, mi ha risposto Gianfranco ed ero in macchina, c'avevo il baracchino in macchina. Poi quando sono le cazzo sono arrivato su io, me. Quando è... capito? No, che c'è la crisi all'Antonio, poi sono entrato io a dare un controllo a Antonio, eccetera. Però ci sta, è vero, facciamo mezzogiorno. Ero già rientrato io. Vabbè, Natali, bisogna fare pazienza anch'io, molte volte, la morte ci metto più a montare che altro, e poi non finisci più. Tante volte mi scoraggia e dico, vabbè, non impongo. E sono sceso a provare l'antenna, anche a Platamona sono sceso. E va abbastanza bene quell'antenna, La Pirrish? Ehi! Se la mia è lo stesso, da Platamona, con 9,5, Sassari, no? Certi punti, vabbè, anche 8, però quasi mi sembrano su a Palai, di fronte alla chiesa, lì arrivo 9,5. Io sono sceso lì così per provare l'antenna, mi ho fatto un giro, almeno uscivo un po' per non rimanere a casa, capito? Sì, ma stavo a fare la telefonata, saremmo usciti insieme. Ehi, non ci ho pensato, perché alle 11 dovevo rientrare per misurarmi la pressione, che sono sotto controllo, perché ce l'avevo alta, capito, per colpa di un farmaco. Allora, ti di me, ma non devi fare rimanere all'altra. No, io, grazie a Dio, ce l'avevo tranquilla la pressione, me l'ha misurata, mi ha detto che il cuore non c'è nulla, che i battiti sono regolari, tutto quanto, ho detto E invece io sono messo male da quel punto di vista, capito? Natale, l'importante è andare davanti da voi. Sì, già lo so. Infatti sono sceso proprio per non rimanermi a casa. Ero sempre chiuso, ero. Anche sto scendo poco qui a fare, arrivati lontani, così e fare qualche spizzuccia e basta, non è che stiamo scendo chissà qua, no, adesso a fine mese vado a guardare uno spettacolo. Anda bene Meda, cosa vuoi ti dica? No, stamattina mi sono deciso, volevo andare al campo perché Gianfranco mi ha detto di scendere, l'avevo trovato qua, però dovevo rientrare troppo presto e non ce l'ho fatta. me ne sono tornato indietro. Vabbè. C'è da un po' che non ci vai, no? Ehi, da quando sono entrato all'ospedale, la prima volta, non sono più andato da nessuna parte. Ero sempre chiuso, in prigione. E sai, l'ultima volta c'è stato con me la volta che ci avevo. Aspetta un attimo. Comunque già con le stazionari a zero ti dà valori molto più. Molto diversi, eh. A zero, anche 1 euro vanno bene le stazionari, come io in macchina ce ne ho 1 euro in tutti i canali, ma anche nei canali alti, a tutta le parti. Non ci muovi là, perché io l'antenna che ho è all'altra parte. No, va bene, cazzo, cioè, perfetto. Ehi, pensa che tu già che quella ringo l'ho tutta rifatta io, me. La ci posso manuare io, me. Già me l'avevi detto. Però non c'è cosa devi fare, sopra le viti, la vulcanizzi, di modo che le viti lo siano a me e non mi si sono mai spiccate. Ho messo il vulcanizzante sopra un giro di nastro, ma senza pensare a spreco. Ne ho messo un bel po'. Non si sono mai staccate. Come fanno a spittarsi se c'è il vulcanizzante sopra? No, questa, io parlo, no, è successo in questa, ancora là c'ha le fascette. Gli ho messo il vulcanizzante e tutta, è meglio di chi sta pure vulcanizzata, lo puoi solo immaginare già, è meglio di questa che ho a casa, lo sai, quella di su, tutta vulcanizzata, no? Anche dove c'è quel filo, ha fatto un bel lavoro, infatti stasera ho guardato le stazionarie e non ce n'erano. Perché tu stai andando a lavorare la domenica? No, sto pulendo. Ah, sei andato così, dai, per provare. No, e per provare, ma già ricadono barbecue, quello portatile. E già ci ho provato io. E l'hai provato bene, no? C'avevo degli hamburger, un paio di bracciole di maiale. E dopo provarlo a vedere se la cosa andava bene, capito? Se funzionava ancora. Già funzionava bene, no? Quello com'è a casa? Eia, ragazzi, come bombe a pecore lunghe, ragazzi. Mi, te lo sto mandando, me. Ecco, me lo sto mandando, me. Devo provare anche questo se funzionava bene. Io ho la graticola elettrica, ma non la tocco mai. Ma io non l'avevo regalata a Natalino e una ce l'ho a casa. Ma non la tocco mai, perché se non ci sono molte persone, il problema mio è grande, capito? E dopo consumare un pezzo di graticola elettrica. La mia non consuma niente, giusto il costo di una bomboletta, che costa 3 euro. E boh. Ah, io manco gas consumavo, il mio era uno scaldabagno tagliato a metà e lo usavo con la legna, ma in 5 minuti accendi un fuoco, via! Tutto arrosto mi facevo quando stavo in campagna. Non posso metterlo, non posso metterlo così. Però già, quello portatile io me lo porto dappertutto. È un bel bello, Emi. Dopo ho fatto arrosto al mare, ho fatto arrosto. Un dialogo, quello non ti rompe le balle nessuno, lo metti sul tavolo e cucini. O lo metti, butti due brindi, lo muovi sopra e si godi niente. Un pochino l'acqua sotto per non... E tu sei andente. E tu baghettaggio. E gira gira me lo compro pure io, quello a gas. L'ho comprato a Predanietta, da quello che vende le bombole con le camion, me l'ho fatto dare da loro, ma è comodo, io lo uso a tre parti. E infatti poi c'ha la cosa, c'ha la sacchetta tipo valigetta o monidretto, e te lo porti da un'altra parte, ce l'ho già un anno quasi. Anche se a legna la roba più sciapulita, comunque già va bene anche così. Vabbè, dove non lo puoi fare già, ti rimarrà già un ghisso. Quello sì, siamo attacchi in pinetta così, non penso che ti dica nulla, ma c'è attacchi, ci può fare fuoco di buone luci allucinate, una volta avevo cieco, no? Praticamente siamo andati a mangiare pinetta e abbiamo arrostito lì, poi abbiamo fatto un fosso, abbiamo messo la graticola nel fosso e dentro il fosso abbiamo buttato tutta l'acqua, di modo che si parava la vicina e la si sturava. Beh, sono arrivati con i fucili, mi gioco pure associato da dietro le piante, sono arrivati questi qua, cazzo, dei baraccini. Praticamente c'è anche spegnere immediatamente il fuoco, dopo la vedere che condizioni è questa microbia, non può andare da nessuna parte, abbiamo portato qua perché lo portiamo in macchina, non può manco camminare. E noi ci hanno detto, guarda, vedete che abbiamo un filo da 20, poi alla fine ho presentato la tessera del CISO, si sono andati. Lo so, sono brutto di scatole. Allora io molte volte mi metto in spiaggia, secondo pettine, due marraggi e via, mi compro quelle bombolette lunghe e mi arrostisce roba, la verità. Già. E quello ce l'ho fatto già due o tre arrostite con quelle tipo le bombolette lì, quelle della camping, quelle alte. Non è dentro, tra giri, accendi e stai cucinando. E chi è questo? Già. Aspetta che sto guardando la canzone. Magari scimbra. Non ho capito. Che scimbra? No, sei fatto il beccaccino, Già, se fosse... Cosa cazzo è successo? Ora. E cosa vuoi? Ora. Non c'è potenza. Uno e tre prova. 9:25, radio 5. Non c'è potenza, non sento potenza io. 9:30, radio 5. Cazzo che sarà, mi si è abbattato lo smitter. Radio così. Si è bloccato. No, non ci sono watt. Come se ci sono watt? Ma che apparecchio stai usando? È grande. E beh, non ti segna nulla. Non c'ho potenza. Ah, sì, un'ora a rompermi le balle. Tanto, ma quando schiacci la portata, a quanto arriva la lancetta dello Smithers? A 5, ma arrivava più su, però non c'è potenza. Prova a aumentarlo. È al massimo, non c'è potenza, te lo sto dicendo. Ciao Franco, ciao California. California, Franco, ciao. Ciao Gianni, buonasera. Pure stazionaria, non ce n'è. Ora, mica vai a caldo. Siamo lì. Ciao Franco, dove sei? Con chi sei? Sei per sei? Ciao Natalino, buonasera caro. A casa sono in campagna, penso sei poco fa. K di positivo. Buona vedere, adesso è salito in potenza. Stampa di tutto! Magari che ci rompi in balle! Parla bene, parla bene! Ciao, vengo lì e te ne butto l'antenna! Se sta rompendo le palle, devo dire che sta rompendo le palle questo qua! Apparecchio tuo! No, c'è un altro che sta mettendo il portante! No, adesso è salito di potenza, è salito! Adesso va bene! Controlla TPL, che non sia... lento. No, negativo. Ora è salito in potenza. Ora. Forse doveva scaldare. No, quasi nulla, no. È troppo caldo magari, non è partita la ventola. Magari ghiccio. No, avevo cagliura, ero qui. Capo, ma molto, quanto ti arriva? Prova a fischiare, canali. Sta mandi la cagliura, che ci calma. Ora è salito in potenza, meno male. Franco, ma aumentato è da te? C'è quasi 9.30. Magari visto. Tu andrai. Franco, buonasera. Dagli un po' di cagliura. Ciao autore, buonasera. Dagli un po' di cagliura, vedrai che si gaglia. Che? Ma ne prega tu sa fruscia becca. A razza di brucio che va. Otto, non sono riuscito a mandartelo nel sito, nel WhatsApp. Come ti mai? Ti chiamo e ti do il sito direttamente, dai, capito. Anche tra me, faccio che WhatsApp, anche tra messaggio mi manda bene. Anche la sigla mi basta. Dai, faccio uno squillo e così te lo prendi lì da YouTube. Sì, anda bene. Ah, e quanto fischi bene! Ma vai da un poco! Beh, Natale! Che roba! Adesso quanto mi arrivi voce, dotto! Forse ti arrivo! Cosa che sei quasi 9.40! Sì, già c'era messo che buccio su tazzito! Anche buccio messo tazzito! Va! Stai a fumigheni, buru! No, ti giuro, guarda, mi arrivi forte, un bel forte mi arrivi. Ma hai rotto le scatole, Carvini. Ma perché ci passa? No, ma rompe le scatole, lo scherzo è bello su chi dura poco, uno che scherza va bene, ma poi quando rompe le scatole, quel sciorro dà fastidio, va. Capo. Se no, ma Gigi non vi a casa, per cui se la poi voglio vedere. Sai che da frusciare la bizzina per si sacciara? Natalino! Antonio! Avanti! Ma mi senti, sì? È la voglia che ti sento, ma perché se no mi pompa di troppo, va. Ora, un po' di meno. Ero convinto non mi ascoltavi, capito? Io ti ascolto qua, ti ascolto stazione 2, sempre ti ascolto. Hai visto che arrivavo bene in campagna? Stava di positivo, sì, arrivavo io ero un posto, ti sentivo perfettamente bene. Vai, Tore! Eia, lei! Eia, cos'è fra? A me mi stai arrivando fra 9.30 mi stai arrivando. Sì, adesso. Vabbè, sto scendo basso io, 5 vatte, se non di più, capito? Dave. Anto, 9.20 mi stai arrivando. Arrivo, Tore. Ho capito. Arrivo io, carissimo Tore. Ah, tu sì. Ehi, buonasera. 9.20 mi stai arrivando, come Franco. Ciao, va bene. Come me, semmai. Come Antonio. Però tu li attaccati, sono che ci puoi fare. No, non sono attaccato. No. No, negativo. Sentite troppo voce, sentite un raggio, ma se poco poco che troppo voce. No, ma sono di apparecchio, non è necessario, ho abbassato un po' di potenza perché saranno 10-15 watt, non di più. Sempre più di me sì. E va bene, comunque, già va bene lo stesso, non c'è problema. Cappa, un attaccalo, retaggia, vedi. Sì, fallo scaldare, fallo. Tutto il giorno ce l'avevo fuggi fra. Ma là ce l'ha avuto, ha toccato su. Ehi, che è poco bomba. Bomba bomba. Ti ha pagato la musica. No, vabbè, l'ho tenuto un po', l'ho tenuto. Cazzo, ma da lì, cazzo, non so perché, ma mi corrisponde meglio. Forse perché non mi so stazionare, non lo so. Cazzo, ma lo fa proprio andare, lo fa. No, non ho capito, sicuramente il motivo è quello. Ci sarà più alimentazione, non so. Buonasera a tutti, comunque solo un saluto, ciao. E chi vi non fa la luce, magari non si fa la luce. grazie. Ciao Claudio, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Un abbraccio a tutti, vi saluto, che sono da un'altra parte. Ciao ciao. Sì, ciao ciao. Ti mando la foto del microfono che sto usando. Mi dai, mi dici che cosa ne pensi. Tanto esce benissimo osso. Poi mi dici cosa ne pensi. È alto, sono 30-40 cm sto parlando. Pompa, pompa. Va bene. Va veramente bene. Frank! Aspetta che ci ho portato nel fuoco, capito? Se no, fatti un'altra volta. Vai, vai, eh. Avanti, fra. Meglio, meglio, manda in muove. Ciao Claudio! Ciao dottore, che sono impegnato in un'altra frequenza. Un abbraccio anche a te. Andate, va bene così. Ok. Gianni, ma altro tomba sì. Ma cosa? Ma che ogni tanto mi arrivi da lontano, mi arrivi. Perché sono lontano dal microfono. Ma che ti hai scoperchiato la tomba, no? Comprati questo che sto mandando Antonio, amico. Della Sennheiser. Poi mi dà la risposta, però ci vuole la giraffa. Non glielo do pronto a Gianni. Della Sennheiser, non so, l'ho comprato uno io per cantare, della Sennheiser è allucinante. E va molto molto bene. Ti dà una bella timbrica. Se non lo senti, guarda, corporale, trick e track e trick e track. E Antonio se lo deve comprare qui. No, lo sto mandando a Antonio, poi Antonio te lo manda a te. Io ho messo la giraffa poco fa. Con pedale. Come? Giraffa e pedale. Sì, sì, sì. Giraffa e pedale. Pedale, pedale. Come ce l'ha Marco là? Marco Scurti. Sì, questo mi ha regalato mio padrino Walter. Andave, andave. Sempre si migliora, dai. Mi serviva la roba, ne avevo un paio, lui mi ha dato uno. Mi disimpegna un bel quando sei in HF, capito, per non stare con questo schiaccio e bim bum bam, mi l'ho collegato poco fa. Molto molto bello. Non mi arrivato se riesco a mandarti, perché qua non c'ho internet in questa stanza. No, che non è arrivato nulla. Vabbè, appena che riesci a mandarmelo già va bene. Ehi, ehi, ehi. Oh Gianni, che mi sta facendo utilizzando adesso tu? Cosa? No, Antonio sto dicendo, poi dirà anche tu la giraffa, così ti elimina lo spazio. Che cosa è questa giraffa? È dall'alto, praticamente tu moduli dall'alto, c'è il pedale, schiaccia il pedale e moduli così, schiaccia il pedale, è stato bravo. Ah, sì, sì, sì, ho capito, tipo quelli da studio. Cala, cala. Sennheiser è buono come microfono, usavano molto tra gli anni 70-80, usavano quello un po' allungato, quello a condensatore, ti ricordi? Io ho anche le cuffie Sennheiser, quella che uso per il baracchino sono Sennheiser, infatti sono sprecate per il baracchino. Per la musica si sente che da Dio. Sì, sì. Usavano moltissimo in quegli anni lì, tra gli anni 80, tra gli anni 70, 80, anche 90, usavano molto il microfono Sennheiser, era particolare. Dovevi attivare il panto, un cazzo si chiama, per far funzionare quelli. Ce l'ho anche io nel mixer. Le cuffie tanti anni fa ce l'avevamo comprate io e Natalino, costavano 70 euro l'una, il paio, della Sennheiser. E sono quelle che usavano per intenderci i DJ. Ah, eccolo qua, è un microfono per cantare. Adattato alla frazione sicuramente. Sì, sì, sì. Io ce l'ho ancora con le cuffie. Ce l'hai fatto tu? Sì, è arrivata. È un microfono come quelli che usiamo noi per cantare, per un po' che parole. Beh, così è, cos'è? Scappa. Tu l'hai adattato alla radio. Come? Lei ha adattato a qualche radio, così. Adattato, non è che si adatta, non quelli che sono i connettori sui e si attacca. Io l'ho solo inserito nella giraffa e poi ho attaccato il connettore alla radio come si attacca da tutte le parti. Sì, c'è anche io la giraffa. Come questa adattazione però tu ce l'hai col col piedistallo. Questo è aggancio pannello praticamente, mobile. Se no io ce l'ho così, fa cantare. L'ho usato un paio di volte che quando ho fatto il gruppo al monte, poi l'ho usato per fare un'altra festa, abbiamo fatto a Celentano, come si chiama chi so? Ma non mi viene un nome. L'avevo fatto di serate. Beh, certo. Vabbè, comunque sta uscendo bene, sì. Buona bomba! Va bene, va bene. Chi è che mi chiama? Come? Chi sei? Sono che chiama, non ho capito chi è. Avanti chi è? Mirko! Sono Mirko. Minchia, sei messo a correre, oggi cosa ti è successo? Non ho capito. Vabbè, mi tocca sentirti oltre 9, 6, S5, S6. Va bene Mirko, ok. Beh ragazzi, vi ascolto volentieri con le cuffie, ma sono un'altra la frequenza. Ci sentiamo. È molto bello anche perché adesso mi faccio anche gli altri, perché ti toglie lo spazio dalla base, capito? Sì, è bello, sì. Ma è risulta lontano quando parli, beh. Sto parlando, come lo vedi tu, sarà 50 centimetri, non lo so, ma e questi sono molto amplificati e poi c'è il processore inserito nella radio, quindi va molto bene. Sì, già va bene, sì, con il microfono. Ti ripeto, io ho le cuffie Sennheiser, si sente benissimo la musica, bellissima come cuffia, leggera e si sente ben bene. Andava bene, meglio così, dai. E quelli lì tolgono un po' di problemi di spazio. Ti puoi mettere altre cose dove ci mettevi i microfoni. No, mi tengo lo spazio della base, hai visto già le radio che ci sono pieno di HF di nuovo, domani ne parte una anche in riparazione, un 575H della Icom che fa i 6 metri, i 10 metri, sono i finali bruciati, purtroppo è rimasta molto ferma e si è pretenchiolata, qui domani va al centro assistenza Icom e la mettiamo a posto. Va bene, dai, vi saluto, ciao Mirko, un abbraccio anche a te, ciao Gianni, ciao Antonio, ciao Tore, ciao a tutti, insomma, dai, un saluto circolare che mi sposto, mi stanno chiamando. E io, avanti Franco! Qualcuno come di Franco California? Ma dove stava cucinando, deve essersi spostato, Dai, saluto anche a lui, comunque, dai, l'importante è che sono entrato giusto per salutare, per capire se stava funzionando tutto bene qua, ma mi sembra di sì. Dai, vi saluto Gianni, a te Mike. E io l'altro giorno stavo ascoltando a voi e voi ascoltate lui. Stavo ascoltando il discorso dei pannelli solari, eccetera, eccetera. Ero un po' cane in più, mi sono portato il portatile. No, ma io vi ascolto sempre, a volte non entro perché sennò mi incasino adesso. Siccome stiamo facendo le prove in 40 metri, allora ho una pausa e sono uscito a farmi una sigaretta e sono entrato a salutarvi, ma io vi ascolto sempre, quando ci siete vi ascolto sempre, anche se non entro vi ascolto, non c'è problema. Ok, dai, ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao, avanti, a chi tocca, Tore, quindi tu. Perché? Che è? Antu, ciao Claudio, stammi bene. Ah, vai Antu. Ciao Claudio, ci risentiamo. Ok. C'è anche Natalino. Buonasera, ciao Carlo, buonasera anche a te. Ciao Carlo! Carlo, buonasera! Buonasera Gianni, Antonio, Claudio che stava andando sulle altre frequenze, Natalino se c'è, Gianni l'altro, no Franco, scusa, e poi non so chi c'è. Siamo in tanti, però Franco si è spostato per cucinare sicuramente, perché ha detto che se non si bruciava la roba, come l'altro giorno, diceva voglio fare la fine dell'altro giorno. E poi c'era Natalino, io, Antonio, insomma c'è Tore, non so se tu l'hai sentito, vediamo un po', Tore Squalo, avanti. Ehi, io lo ascolto bassino, lo ascolto. Buonasera Tore. Buonasera anche a te. Non mi ricordo il nome. Carlo da questa parte, zona Luna e Sole, sto trasmettendo da lì. Sì, ok, adesso ti ho ascoltato. Ciao Carlo, stammi bene. Antonio. Oh Carlo, ma te non è corretta, ma troppo ingresso che stai dando, cosa sei attaccato? Sì, sì, adesso sono attaccato. Sicuramente ti stai dando troppo ingresso, abbassa un po'. Quanto lo stai pilotando? Guarda adesso se va meglio. Allora va bene. Capo, allora lo lascio così. Quanto ti stavi dando? Carlo, perché puoi regolare il fatto da Raffaele? Sì, esatto, c'ho diciamo il regolatore di potenza nella radio. Quando esci con quell'apparecchietto lì, mi devi dare meno di 10 watt, perché sennò la radio non è che distorta, però te la rende un po' cupa, capito? Un po' massa. Sì, ho capito, no, non mi ero accorto che c'erano troppi watt, capito, e adesso li ho abbassati, mi sa che adesso gli sto dando 3 watt e sto uscendo con 35. Ma già va bene, ti ascolto benissimo. Ciao Carlo. Ciao, chi è, chi è? Ciao, chi sei? Non mi hai conosciuto, Natalino, so. Natalino, adesso sì, al secondo passaggio, prima avevo sentito solo ciao, ho detto questa voce che mi sembra e non mi sembra. Come va Natalino? Ehi, come va? Così così, stamattina sono uscito, avevo l'apparato in macchina e andava benissimo quell'antenna. Stamattina invece ho dormito perché ho finito di lavorare alle 5, quindi sono rientrato intorno alle 5 e mezza a casa, mi sono buttato a letto, mi sono svegliato all'una. E hai fatto bene, almeno hai recuperato. Sera sono casalingo, domani c'è un giorno libero, però penso che uscirò poco e niente, perché devo aspettare il geometra che deve venire a vedere l'appartamento con la questione 110%, quindi non so se viene di mattina o di sera. Se esco uscirò vicino a fare un po' di spesa domani. E al limite ci sentiamo, se domani mattina esco con la macchina ci sentiamo caro. Ti fai chiamata, tanto io già mi alzo presto e la mattina attacco qua. Cappa. Poi o meglio sto uscendo adesso. Adesso va benissimo. Così dai, non mi ero accorto, troppi watt, perché prima stavo andando solo con la radio, forse ieri quando ho acceso, e adesso avevo attaccato il 747 e non mi ero accorto che non avevo regolato i watt in uscita. L'ingresso, devi dargli un paio di watt d'ingresso, non di più, perché sennò non vanno bene quegli affarini. Più di 5 non gliele dare in ingresso. 3 watt adesso gli sto dando. Va bene così. E così va bene. Ciao Gianni, sto provando un apparecchio della mucca, mi ascoltate? Sì. Eia, sempre quelli che vendono le angurie e il pesce. Anguria alla prova. Alla prova che la zindria di Monui in Sassarizu. Ma le sto uscendo la tari. No, già stai uscendo bene. Stavo parecchio malogato, lo stavo provando a vedere come stava andando. E stamattina ce l'avevo in macchina, andava benissimo quell'antenna, fra. La radio potrebbe essere migliore, fra, dico la verità. Però non sta uscendo male, dai, è una radio dinamica. È un microfono normale, già, capito, non è un apparecchio omologato, non è che sia. Poi ti faccio sentire quello mio normale. Gara gara. Ehi, comunque va bene. Già ti sentiamo, interessante quello. Te l'ho detto che sarebbe mettere, è uno di quei microfoni della Intec, quelli con la batteria da 1,5 paga una bomba. Avanti io. Stavo guardando prima un pezzo di partita Atalanta-Genoa ed ero così adesso controllandomi il risultato perché ho spento tutto e niente, mi serata un po' piovosa stasera, però il vento è già calato.